voi siete veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, ma a dirlo. No, no, ma lo so perché. Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Mangiare sempre più blu. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni. Ritroverò i tuoi occhi. Il sogno di tutti è vivere cent'anni. In realtà, Deborah, il sogno è più ambizioso, perché vorremmo vivere a lungo senza invecchiare. E vivere bene, naturalmente. Ma restando al traguardo dei 100, abbiamo buone probabilità di sfiorarlo, di superarlo. Gli studiosi sono impegnati da anni a cercare il segreto della longevità, studiano i geni, le sequenze genetiche degli ultracentenari per capire quale mutazione permette loro di sopravvivere a malattie come il cancro, gli attacchi cardiaci, di vivere ben oltre l'età media mondiale. Oggi avremo il piacere di avere con noi un grande esperto, il professor Giovanni Scapagnini, che è professore di biochimica. Lui è un grande esperto dei meccanismi biologici dell'invecchiamento e dal 2006, pensate, collabora con il gruppo di ricerca dell'Università di Naha in Giappone, che è il gruppo che studia, li abbiamo sentiti nominare tante volte, i famosi centenari di Okinawa, per cui è un settore davvero molto interessante. Ma per arrivare a 100, questo è il simbolico limite moderno della longevità, non contano solo i geni, per fortuna. Per raggiungere, possibilmente superare il traguardo, contano anche altri fattori. Uno comportamentale, che quindi comprende lo stile di vita, inteso come alimentazione, attività fisica, mantenimento del benessere, tutti i temi di cui parliamo quotidianamente a Cuore Denari, ma conta anche il supporto sociale, inteso come relazioni, interessi, cioè una rete che sostenga le persone anziane, che le aiuti a vivere meglio. Questa è la ricetta suggerita dagli studiosi della longevità, ma noi oggi insieme a Deborah vogliamo sapere qual è la vostra, su che cosa puntate. Avete centenari in famiglia? Adottate uno stile di vita protettivo e preventivo? Puntate invece sugli stimoli culturali, sugli interessi, oppure non volete pensarci? 800 24 00 24, lo stesso numero, potrete utilizzarlo non per dare ricette, ma per avere consigli su come invecchiare bene. Ci sono infatti ormai delle evidenze che dimostrano il ruolo protettivo di alcune sostanze per il nostro organismo. Cervello, cuore, intestino, muscoli, articolazioni possono mantenersi giovani e in salute a lungo con dei piccoli accorgimenti. Insomma, come a dire, Deborah, uomo avvisato, mezzo salvato, centenario conquistato. E nella prospettiva di questa vecchiaia lunga, che certamente tutti auspichiamo per noi, serena e in salute, giocano naturalmente un ruolo fondamentale anche i denari. Abbiamo dedicato tante puntate alle pensioni e all'importanza di una riflessione seria sulla costruzione del nostro futuro previdenziale di primo e di secondo pilastro, quindi dal punto di vista della pensione statale e di quella integrativa. Oggi torniamo su questo argomento perché c'è un tema di grande attualità, ne avrete sentito parlare, e in particolare è stato portato all'attenzione di molti da un articolo del Sole 24 Ore degli ultimi giorni. Il calo del prodotto interno lordo potrebbe avere un effetto anche sulle nostre pensioni, perché influisce sul tasso di rivalutazione dei contributi che versiamo mensilmente. Cercheremo di vederci più chiaro nelle pagine di Denari a partire dalle 11.45, ma prenotatevi anche su questo argomento all'800 24 00 24. L'longevità sarebbe passare a mangiare bene, non tanto esagerare nella vita, tenersi bene in forma, pulito. Penso che sia proprio la cosa genuina che abbiamo mangiato noi. Questo che abbiamo appena sentito è un estratto da un servizio del TG di Videolina, è un'emittente televisiva locale della Sardegna, che ha intervistato due anziani di Villagrande, un paese che si trova nella parte centro-orientale della Sardegna e, pensate, detiene il primato mondiale per longevità, versante maschile. Sì. E insomma, Deborah, è una sorta di Okinawa nostrano. Dobbiamo trasferirci, dici? Io direi, un pensierino. Allora, avete parenti a Villagrande? Chiamateci. Intanto noi abbiamo chiamato il nostro esperto, il professor Giovanni Scapagnini. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Professore di biochimica e, come anticipato, esperto di meccanismi biologici dell'invecchiamento e dal 2006 collabora con il gruppo di ricerca dell'Università di Nara in Giappone, che studia proprio i centenari di Okinawa. Professore, la Sardegna come Okinawa sembra che abitare in un'isola aiuti. In entrambe le isole infatti c'è un'alta concentrazione di centenari, uomini e donne con un patrimonio genetico di grande interesse per chi come lei è impegnato a scoprire la ricetta della longevità, ricetta che, come tutte le ricette che si rispettino, ha più ingredienti e noi oggi li prenderemo in esame proprio con il suo aiuto. Ma iniziamo, professor Scapagnini, dal fattore G, la genetica. In questi giorni, come abbiamo anticipato nel lancio del GR, sono stati presentati dati di uno studio dell'Albert Einstein di New York, che ha individuato nella variante di un gene legato, tra le altre cose, al metabolismo del colesterolo, il segreto della longevità. Non è il solo, ma mi sembra che questo sia l'ultimo in ordine di tempo, ma questa ulteriore scoperta conferma che l'interesse degli studiosi ha dato i suoi frutti, perché ogni tanto, professore, noi sentiamo: scoperto il gene della longevità, scoperta la proteina che ci permette di vivere più a lungo. Insomma, la ricerca è in grande azione, produce buoni frutti. Sì, assolutamente sì. Devo dire che nel campo della longevità in questi ultimi anni ne sono veramente arrivate tante informazioni. In particolar modo la ricerca che ha appena citato dell'Albert Einstein Institute deriva da un progetto che è ormai una decina di anni in fase di avanzamento, tra l'altro condotto da un mio caro amico che si chiama Nir Barzilai. Loro stanno studiando il genoma di 500 centenari, sì, che fanno parte però di un gruppo di popolazione molto ristretto, perché sono ebrei ascanazi, che sono caratterizzati appunto da un'estrema longevità. E questo ultimo gene del colesterolo, che poi si chiama CEPT, fondamentalmente un gene che regola i livelli di HDL, il cosiddetto colesterolo buono, è solo l'ultimo arrivato di una serie. Negli ultimi 10 anni, dicevo, ne hanno identificati almeno altri 6. Ora, è interessante perché questa popolazione, rispetto a quella che abbiamo citato prima, cioè la Sardegna e Okinawa, su cui da qualche anno ho accentrato anche i miei interessi scientifici, ha una caratteristica molto particolare. I centenari ebrei ascanazi fanno una vita tendenzialmente pessima, cioè fumano, bevono, non hanno particolari abitudini sane, e quindi in questo gruppo la genetica, dice Nir, sono toccati dai geni di Dio, è veramente molto molto forte. In condizioni normali i geni servono a costruire un'autostrada, una pista, dove però dobbiamo fare il nostro percorso, e quindi l'ambiente spesso è più forte dei geni. Sia a Okinawa che in Sardegna, se prendiamo un abitante del luogo e lo spostiamo in un'altra parte del mondo, tendenzialmente perde le sue caratteristiche di longevità. Quindi i geni servono, ma serve anche un ambiente adeguato perché questi geni funzionano al meglio. Quanto conta, professor Scapagnini, il fattore G? Quanto incide nella durata della vita? Questo era il tema. Io dipende un pochettino dalla forza dei geni coinvolti, ma se sono dei genoni o se ne sono dei genini. L'esempio degli ebrei è calzante, sì, degli ebrei ascanazi. Però tendenzialmente il messaggio, che secondo me è un messaggio molto positivo, quello che esce fuori da tanti anni di studi, è che l'ambiente è più forte dei geni. Questo è un messaggio di grande speranza. È chiaro, se ho una malattia genetica, quindi una forte mutazione, il peso di questa mutazione cambia completamente l'andamento della mia vita, ma se sono piccole mutazioni, quindi i cosiddetti geni di suscettibilità, il vantaggio che ereditiamo i nostri, o lo svantaggio dei nostri genitori, quello può essere modificato. Una sana longevità può essere guidata dall'ambiente, e l'ambiente è molto spesso più forte dei geni, quindi possiamo aiutare le nostre predisposizioni. emozioni e ottenere, anche se non siamo nati nella etnia di Okinawa o in Sardegna, nell'Ogliastra, è una sana longevità. Un ascoltatore al 349-238-6666 ci scrive: Stefano, non dimenticate, esatto, Campione del Garda, altra enclave di centenari. Comunque la buona notizia è che Centenari si nasce grazie al corredo genetico, ma lo si può diventare sfruttando anche fattori come lo stile di vita, l'attività fisica e una adeguata alimentazione, tutti i fattori di cui parleremo col professor Scapagnini, che ci darà un po' dei consigli su come invecchiare, ma soprattutto aggiungere, no, qualità di vita a quegli anni, perché tutti vorremmo arrivare a 100 anni, ma nessuno vuole invecchiare. Ci piacerebbe che gli anni tra i 30 e i 50 anni, invece che di 12 mesi, fossero di 36. Allora, abbiamo già molti ascoltatori che vogliono parlare con noi e col professor Scapagnini. Direi di cominciare allora con Raffaele dalla provincia di Palermo, che un po' si sofferma sulle indicazioni che naturalmente da Cuore e Denari arrivano molto spesso. Raffaele, buongiorno. Siamo indiscrete se chiediamo la sua età? 51. Quindi nel fiore ancora degli anni, naturalmente. Quanti ne vorrebbe vivere? 100 anche lei? Ma guardi, io da 35 anni che faccio attività sportiva, associando una buona alimentazione e quindi 3 volte a settimana attività sportiva, tra nuoto, jogging e bicicletta. Le posso dire, io ho 51 anni ma ne dimostro 35. E quindi dico la buona ricetta. Se lo dice lei, però, però se lo dice, però lei se lo dice da solo e noi le crediamo. Se ci manda la foto, poi la passiamo anche al professor Scapagnini. Quindi la ricetta di Raffaele è l'attività sportiva. Professor Scapagnini. Sì, è una ricetta abbastanza corretta, anche se lo sport agonistico può anche per certi versi accelerare alcuni tipi di invecchiamento, quindi attività aerobica o una lieve attività fisica sono un aspetto fondamentale per raggiungere un invecchiamento longevo e di successo. Sicuramente è un elemento e non come è ci il diceva solo il nostro amico da Palermo, sicuramente anche la sana alimentazione, che è un concetto detto così un po' vago, come anche l'attività fisica, sono concetti un po' vaghi, potrebbero essere specificati meglio. Infatti noi lo faremo con lei, professore, nel corso della trasmissione, e parleremo di alimenti protettivi, però prima di così andare nel dettaglio, vogliamo ricordare una regola base che mi sembra venga condivisa da tutti: per vivere a lungo bisogna mangiare poco, nutrirsi, come dite voi, in maniera ipocalorica. Professore, ma le chiedo la ragione, quindi la spiegazione scientifica, o meglio su quali basi si fonda questa affermazione, ma naturalmente, dato che noi a Cuore Denari vogliamo consigli, vogliamo anche da lei un'indicazione molto semplice per tradurla nella vita pratica. Cosa vuol dire mangiare poco e perché mangiare poco è, allora, protettivo? Partiamo dall'inizio. Sicuramente esiste un fenomeno che è la restrizione calorica, cioè una riduzione drastica della quantità di calorie nella dieta, che è l'unico modo per allungare la vita in tutti gli esseri viventi. È stato dimostrato in tutti gli animali sperimentali e da qualche tempo anche sui primati. Sicuramente la restrizione calorica è un estremo, ma è un modello che ha a che fare con la riduzione delle calorie invece in maniera molto più fisiologica, cioè una dieta ipocalorica. E questo tipo di atteggiamento è qualcosa che abbiamo ereditato probabilmente durante la nostra evoluzione ed è un meccanismo, un input nei confronti del nostro sistema biologico che in qualche modo congela il metabolismo. Ridurre le calorie attiva nelle cellule una serie di meccanismi che migliorano la capacità di difesa della cellula stessa e ne aumentano la capacità di sopravvivenza. In qualche modo ridurre la quantità di energia a disposizione migliora al massimo la capacità di gestire l'energia della cellula, e questo è il modo migliore per non ammalarsi. È proprio un induttore, come una sorta di allenamento fatto sulle cellule, che poi si trasferisce a tutto l'intero organismo, una serie di geni, di proteine che servono a proteggere il nostro organismo. Quindi nella ricetta della nostra longevità mettiamo una dieta ipocalorica, professor Scapagnini, tra gli ingredienti. Sì. Troviamone altri. Sì, no, mi dica, professore. Dicevo, è la caratteristica che forse più importante anche di Okinawa. È una popolazione che ha, rispetto a qualsiasi altra parte del mondo, una delle diete più ipocaloriche in assoluto, anche perché sono abbastanza poveri, quindi sono rimasti a un approccio alimentare direi quasi medioevale. Però gli ebrei eschenazi, che lei mi diceva, invece fanno esattamente il contrario, mangiano, bevono, fumano. Sì, e hanno i geni però. E hanno i geni protetti, quelli che vengono da Dio, come dice il suo collega. Esatto. 800 24 00 24, una precisazione. Abbiamo letto un messaggio che ci arrivava da Stefano, campione del Garda, invece molti ascoltatori ci stanno scrivendo che è Limone del Garda, dove ci sono i centenari. Cerchiamo di essere precisi. Andiamo lì a respirare un po' d'aria. Sì, visto che magari Villa Grande per noi è un po' più complicato, andiamo qua sul Garda. Allora, scriviamo insieme la ricetta della longevità, la scriviamo a cuore denari insieme ad un grandissimo esperto, insieme al professor Scapagnini. Stiamo annotando gli ingredienti e ne aggiungete naturalmente voi con le vostre telefonate. Esatto. Allora, prima di sentire Carla da Milano e Walter da Modena, volevo leggere velocemente questo messaggio di Bruna, che ci racconta che la longevità per lei è suo padre. Vive da solo, nessun aiuto in casa, nessun problema di salute, gioca a pallone con i nipoti, dipinge, va a pescare e mi fermo qui. Ha 91 anni, sarà la sua penichella pomeridiana? Professor Scapagnini, il segreto della longevità di questo signore? Dormire quantità adeguate di sonno è forse uno degli elementi che spesso non si cita nella ricetta della longevità, ma sicuramente ha una valenza molto molto importante, perché il sonno è un regolatore non solo delle funzioni cerebrali, ma anche un pochettino in un'ottica circadiana, quindi dei ritmi biologici, anche del nostro equilibrio ormonale, e gli ormoni sono quelli che sono i fattori che regolano maggiormente il nostro metabolismo. E quindi sicuramente dormire almeno 7 ore al giorno è un elemento molto utile al mantenimento della nostra longevità. Quindi mangiare poco, dormire bene, una dieta, abbiamo detto, povera, ma deve essere anche ricca la nostra dieta di alcune sostanze che lavorano non solo per mantenere il nostro organismo in salute, ma che sono in grado di attuare anche una sorta di azione anti-aging. Sono diverse, ne abbiamo parlato tante volte, quelle più note sono i polifenoli, che conosciamo anche noi a cuore denari, ma di cui il professor Scapagnini è un grande esperto. Professore. Sì, abbiamo detto una dieta povera di calorie, ma sicuramente molto ricca di elementi nutrizionali, quindi oltre a quelli specifici di cui parleremo fra un istante, non dimentichiamoci i cosiddetti essenziali, quindi le vitamine, i sali minerali e sicuramente una serie di grassi essenziali di cui spesso abbiamo anche parlato, che sono gli acidi grassi poliinsaturi, fondamentali per il mantenimento della nostra salute e della nostra longevità. I polifenoli sono le molecole chimiche che le piante usano per difendersi dall'ambiente e non sono dei veri nutrienti, cioè non servono a fare energia, ma sono parte integrante della nostra alimentazione, perché soprattutto nell'area mediterranea molti dei cibi che mangiamo, a cominciare dall'olio d'oliva, sono particolarmente ricchi di queste sostanze. Bene, queste sostanze di nuovo sono dei piccoli trainer, dei piccoli allenatori delle nostre cellule, e un po' come la riduzione delle calorie, sono in grado di attivare nelle cellule meccanismi di difesa, meccanismi di sopravvivenza che ottimizzano la funzione cellulare e quella dei tessuti e del nostro intero organismo, quindi sono un elemento importantissimo per la gestione della salute e dell'invecchiamento in salute. Anche l'attività sessuale fa la sua parte, ci scrive Daniele. Vedremo se possiamo inserire anche questo ingrediente nella nostra ricetta, a cui inseriremo anche un ingrediente che è venuto fuori anche e sottolineato da numerose ricerche, chiedo conferma al professor Scapagnini, è che è il porsi degli obiettivi. Quando da piccoli ci dicevano che cosa vuoi fare da grandi, bene, si dice, è stato dimostrato che avere dei sogni, degli obiettivi, voler fare delle cose nella vita ha un effetto protettivo e aiuta a vivere più a lungo. Ne parleremo anche nel corso della trasmissione con il dottor Aquila, perché tante volte ci fissiamo degli obiettivi ma poi ci perdiamo un po' per strada. Ma abbiamo altri ascoltatori che vogliono parlare con noi. Cominciamo allora con Carla da Milano. Abbiamo chiesto prima di mettersi in contatto con noi gli ascoltatori che hanno dei parenti vicino a questo luogo misterioso dove sono tutti longevi. Carla da Milano, buongiorno. Buongiorno, io sono di Urzuleio, un paese vicinissimo a Villa Grande, anche nel mio paese ci sono diverse persone anziane, centenari, zie che godono di ottima salute. Mia mamma ha 91 anni, vive da sola, cucina, fabbrica, marmellati di tutti i generi, eccetera. Credo che è venuta a Milano questo fine settimana, in 48 ore ha preso l'aereo andata e ritorno. Credo che al di là del corredo genetico e dell'alimentazione, formaggio, un sacco di verdura, fichi, cachi, chi più ne ha più ne metta. Credo che però ci sia anche un altro elemento molto fondamentale. Dalle nostre parti i nonnini leggono i giornali, mia mamma legge 4 quotidiani al giorno, è molto vista, come mio papà. E ha il cervello che funziona, il muscolo che si vede di meno, che è sempre in esercizio, che evita che si possa andare in depressione, perché ci sono sempre mille argomenti belli e brutti che aiutano veramente a discutere, litigare, e quindi non si sente mai soli. La lettura del giornale è una palestra per la mente, e quindi allora Carla, anche Sole 24 Ore leggerà la sua mamma, sì, allora ecco, bisogna leggerlo quotidianamente. Cuore e denari. Entro l'anno sarà data questa avvio a questa busta arancione cosiddetta, che renderà consapevoli le persone di quali sono le loro possibili prestazioni pensionistiche, in modo da spiegargli cosa avranno e quindi anche da mostrargli l'utilità della pensione complementare. Non è che faremo tutto 20 milioni subito, ma insomma progressivamente però cominceremo a distribuire queste buste arancione. E questa era la voce di Tiziano Treu, commissario dell'INPS, e proprio qualche giorno fa ai microfoni della nostra Anna Marino è tornato a parlare dell'ormai leggendaria busta arancione, attraverso la quale l'Istituto di Previdenza Nazionale dovrebbe comunicarci a che punto è il nostro assegno virtuale. Voi avete un'idea dell'entità che potrà avere la vostra pensione? Avete mai provato a calcolarla? Provate ad individuare una cifra e magari scrivetecela al 349-238-6666 o su Facebook e Twitter, e se invece non sapete proprio da che parte cominciare per fare questo calcolo, condividete con noi i vostri dubbi all'800 24 00 24. Noi oggi dalle 11.45 in particolare approfondiremo un argomento di cui si sta parlando molto in questi giorni: il dato negativo del PIL degli ultimi 4 anni, e che inciderà sul calcolo dell'assegno previdenziale, perché è proprio al prodotto interno lordo che si lega il cosiddetto tasso di rivalutazione dei nostri contributi. Una questione un po' complessa, vi spieghiamo questo meccanismo e cercheremo di capire cosa potrebbe succedere alle nostre pensioni. Dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. Pelle, cuore, cervello, intestino, sino ai muscoli e alle articolazioni. Oggi cerchiamo insieme al professor Scapagnini di conoscere le sostanze in grado di proteggere la nostra salute e di promuovere una sana longevità. Abbiamo la possibilità di parlare con un grande esperto che, come abbiamo anticipato e sottolineato più volte nel corso della trasmissione, studia gli ultracentenari di Okinawa. Ma di centenari e ultracentenari ne abbiamo qua anche in Italia, molti ci stanno segnalando luoghi, esatto. Oltre al paese che noi abbiamo citato, Villa Grande in Sardegna, che è entrato nel Guinness dei primati per la longevità maschile, altri luoghi dove ci sono alte concentrazioni di centenari. Stiamo scrivendo la ricetta, professor Scapagnini, e allora vorremmo da lei avere delle indicazioni su quelle sostanze che abbiamo definito protettive, in grado quindi di mantenere la salute degli organi e anche mantenere efficienti le nostre funzioni, in modo da farci vivere certamente a lungo, ma soprattutto bene. Professore, iniziamo un po' dal cervello. La nostra ascoltatrice era intervenuta raccontandoci la mamma, che è molto attiva, perché legge 4 quotidiani al giorno, si mantiene, insomma, prende l'aereo, viene a Milano dalla Sardegna in un weekend, bella, fresca, riposata. Professore, il cervello è l'organo che invecchia più rapidamente o sbaglio? È l'organo più esposto all'invecchiamento, è sicuramente una delle grosse preoccupazioni delle prospettive della salute pubblica, perché la peggiore malattia del cervello, cioè la malattia di Alzheimer, è una di quelle che sta aumentando in maniera veramente esponenziale, e quindi centralizzare la nostra attenzione sul cervello è sicuramente una cosa molto importante. Per noi e anche per, no, certo. Anche per la comunità tutta, perché... Assolutamente sì, e credo che l'ascoltatrice ha messo in risalto un aspetto molto importante. Tanti studi hanno fatto vedere, hanno dimostrato che mantenere giovane il cervello ha un effetto benefico su tutto il resto del corpo, quindi questo è un ulteriore elemento da tenere in considerazione. E il cervello ha bisogno sicuramente di cibo molto speciale, ma anche bisogno di essere sempre allenato, e il discorso delle motivazioni è un aspetto veramente molto rilevante, giusto per fare il parallelo con quello di cui si è detto che io studio, cioè il centenario di Okinawa, beh, uno degli elementi molto importanti è il fatto che l'anziano che ancora vive in un contesto di villaggi è al centro della socialità del villaggio fino alla fine dei suoi giorni, non va mai in pensione, si parlava prima di pensioni, sì. Beh, loro la caratteristica è che vanno a lavorare nei campi anche a 100 anni. Ora questo non so se è una cosa auspicabile da un punto di vista lavorativo, ma sicuramente in termini di mantenimento delle attività e di funzione del cervello, prima è stato chiamato una sorta di muscolo, beh, non è proprio un muscolo, ma sicuramente è un tessuto, un organo che va allenato costantemente. Quindi la lettura del giornale, il mantenimento del contatto sociale è un elemento veramente fondamentale per tutto l'equilibrio del nostro organismo, quindi questo è sicuramente un punto centrale. Poi ci sono anche cibi che aiutano il cervello a mantenersi giovane e funzionale, e torniamo al discorso dei polifenoli e degli acidi grassi poliinsaturi. Gli omega 3, di cui spesso abbiamo parlato, che derivano dalle alghe, poi il pesce ne mangiano tante alghe, quindi il pesce diventa forse una delle fonti alimentari migliori degli omega 3, beh, sono fondamentali per la qualità della salute del cervello. Un quinto del peso del nostro cervello è fatto da omega 3 e sono sostanze che non possiamo produrre, siamo costretti a mangiare, sono degli essenziali, quindi un quantitativo adeguato è un elemento critico. E i polifenoli invece servono veramente a mantenere le difese corrette del nostro cervello nei confronti dei due grossi nemici della giovinezza, lo stress ossidativo e l'infiammazione. Ma quanto a dosi, professore, quando noi dobbiamo, la nostra dieta deve essere ricca di sostanze protettive, i polifenoli, abbiamo parlato ad esempio la curcumina, no? Che lei ha studiato con il suo gruppo di ricerca. Sì, curcumina è molto presente in Oriente, da noi ci sono delle alternative altrettanto valide, si parlava prima dell'olio d'oliva, l'olio d'oliva contiene due sostanze che si chiamano idrossitirosolo e oleo europeina, sono un po' complessi i nomi, però sono sempre dei polifenoli. Bene, un olio d'oliva macinato a freddo, extravergine d'oliva, contiene un quantitativo adeguato di queste sostanze che hanno un'azione antinfiammatoria molto significativa. E altre fonti interessanti sono per esempio i frutti di bosco, che contengono dei polifenoli molto biodisponibili che si chiamano antocianine, che servono, lo vedremo forse fra un attimo, anche al cuore, ma servono moltissimo anche al cervello perché sono potenti antinfiammatori, quindi riducono il peggiore stimolo che è l'infiammazione cronica nei confronti dell'invecchiamento, è l'elemento che maggiormente porta il nostro organismo verso la perdita di funzione, quindi l'invecchiamento patologico. Quanto lei ha già citato me la ridice che mi si attorciglia la lingua. Le antocianine, perché da Anto, Antonio e poi c'è un po' rima con Rosciannina, dai. Per il cuore, ma per quanto riguarda invece il nostro intestino, che è veramente sotto i riflettori della scienza, perché l'intestino sembra, no, che racchiuda un po' l'elisir della lunga vita. Noi viviamo con un organismo che 10 volte più grande di noi, che è la nostra flora batterica intestinale, cioè abbiamo un numero di cellule nel nostro intestino che supera di 10 volte il numero globale delle cellule del nostro organismo, quindi è un essere enorme che vive in simbiosi con noi. Bene, tra l'altro devo dire, un altro mio caro amico è uno dei maggiori scienziati dell'invecchiamento che ci sono al mondo, è un italiano, il professor Claudio Franceschi, sì. Da qualche anno studia con un consorzio europeo la flora batterica intestinale dei centenari ed ha scoperto che un certo tipo di flora batterica intestinale è una garanzia per il mantenimento, diciamo, di una buona longevità e di un invecchiamento di successo. Soprattutto alcuni tipi di batteri, come i lattobacilli, sembrano essere importantissimi di nuovo nel regolare la capacità di risposta all'infiammazione. Quindi lavorare sul nostro intestino, sicuramente la qualità dei batteri dell'intestino deriva anche dall'alimentazione, però è uno dei punti di maggiore attenzione della ricerca in questo momento per capire come fare a promuovere una longevità in tutta la comunità. Professor Scapagnini, abbiamo in linea con noi il dottor Aquila, abbiamo anticipato l'interesse degli studiosi che si occupano di longevità e anche rivolto alla capacità delle persone di porsi degli obiettivi. A volte noi ce li poniamo ma li abbandoniamo per strada, non sappiamo se sono quelli giusti, se siamo adeguatamente preparati a. Allora il dottor Aquila ci mette un po' i puntini sulle i per aiutarci a capire dove stiamo andando, che cosa stiamo facendo e a puntare su un obiettivo per, perché no, stare meglio e chi può dire, magari allungare la vita. Dottor Aquilar. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo bisogno come sempre del suo intervento puntuale, mirato, preciso, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico e passare al secondo nostro appuntamento. Professore, noi abbiamo bisogno di dare un senso alla nostra vita, come si fa? Certo, intanto possiamo partire dagli obiettivi biologici e psicologici insieme, per esempio nella nostra vita all'inizio diventare indipendenti dai genitori, anche quello è un obiettivo, poi pian piano avere figli, stabilire tradizioni e valori, impegnarsi nella società e nella carriera, questi sono gli obiettivi generali, poi ci sono gli obiettivi individuali di ognuno di noi. E se noi riusciamo a imparare a riconoscere le nostre emozioni, saranno le nostre emozioni che ci detteranno qual è l'obiettivo della nostra vita, che può essere la musica o può essere un certo tipo di lavoro o può essere un certo tipo di impegno sociale. Noi dobbiamo riconoscere le nostre emozioni e seguirle dopo aver eseguito alcuni obiettivi psicobiologici che sono uguali per tutti. E per riconoscere le vostre emozioni, le nostre emozioni, io vi invito a leggere, a non perdervi, i post del professor Aquilar sul nostro Daily Lab, una guida preziosa, rasserenante, che ci aiuta a rimetterci in equilibrio. Ringraziamo il professor Scapagnini, il professor Aquilar per essere stati con noi. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Volentieri. E poi però dobbiamo salutare, a parte gli ospiti che ci accompagneranno nella seconda parte di Cuore Denari per il nuovo argomento, dobbiamo salutare anche la new entry. Ah sì? Sì, abbiamo una new entry. Ci ha un po' stuzzicato quel messaggio e adesso ve lo leggiamo. A tra poco. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. Allora, dalla longevità di cui abbiamo a lungo parlato nella prima parte del programma alle pensioni il passo è breve. Discutiamo spesso di come la nostra vita più lunga, per fortuna, potrà sostenersi anche dal punto di vista economico. Il settore delle pensioni negli ultimi anni è stato intervistato. Vedi che oggi Antocianine, cosa ci è successo? Non lo so. Vabbè, poi ne parliamo. È stato interessato da molti interventi legislativi, qualcuno anche molto contestato, come la legge Fornero, ma in ogni caso tutti inevitabili e necessari. In questi giorni un'altra notizia ha creato un po' di allarme. Si parla cioè di un effetto PIL sulle pensioni. In sostanza, per dirla in breve, le pensioni per le quali stiamo accumulando contributi saranno meno generose del previsto, visto che la loro rivalutazione è legata proprio al PIL, al prodotto interno lordo, alla ricchezza, alla crescita del nostro paese. Siccome non cresciamo, il PIL è negativo. Fate voi due conti. Che succede? Allora dobbiamo capirne qualcosa di più, perché si è creata anche una bella, come era nelle attese, bagarre politica su questo tema, e su questo tema in questi giorni ne ha scritto moltissimo Vitaliano D'Angerio del Sole 24 Ore, che torna con noi. Buongiorno. Ciao Deborah. Ciao, ciao Nicoletta. Ciao. Già qualche spiegazione l'ha data ieri anche a Focus Economia, a cui abbiamo affiancato anche il nostro esperto di questioni previdenziali Fabio Venanzi. Dottor Venanzi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi entrambi firmate diversi articoli sul Sole, tutti a pagina 2, quindi segno che è proprio un tema abbastanza dirompente caldo in questo momento. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre considerazioni in diretta. Avete mai provato a fare una simulazione dell'assegno pensionistico che riceverete in attesa che arrivi la benedetta busta arancione? Qualche giorno fa promessa di nuovo a Radio 24 alla nostra Anna Marino, proprio da Tiziano Treo, oggi commissario appunto dell'INPS, lo abbiamo sentito poco fa. Voi siete capaci intanto di farvi l'estratto conto contributivo da soli? Vitaliano, direi di andare subito a spiegare la questione appunto dalla quale siamo partiti, la portata della notizia della quale si parla tanto in questi giorni, perché per la prima volta dalla riforma Dini del 95, quella che ricordiamo per chi non la ricordasse, ha sancito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, il tasso delle di rivalutazione appunto delle pensioni dal 95 ad oggi sarà negativo. Ci spieghi bene che cosa succede? Allora, ogni anno l'Istat, che è il nostro istituto nazionale di statistica, deve effettuare questo calcolo e poi lo comunica a INPS, alle casse di previdenza e allo stesso ministero. Perché adesso è negativo? Perché questo calcolo, questo tasso medio di capitalizzazione dei montanti contributivi, parliamoci, il montante contributivo è il salvadanaio previdenziale, esatto, dove ne mettiamo i nostri soldini ogni mese, no? Quando ci arriva lo stipendio. Esatto, che li emette comunque l'azienda per noi, diciamo che non li vediamo noi, no, materialmente, però certo, questo accantonamento viene fatto. Questo calcolo viene fatto su una serie storica del PIL degli ultimi 5 anni. Quindi ogni anno viene fatta. Gli ultimi 5 anni sappiamo benissimo quello che è avvenuto. Nel 2009 c'è stato un calo del PIL del 5%. Quindi questo calcolo viene fatto sulla media del PIL degli ultimi 5 anni e quest'anno il tasso negativo è, appunto, il tasso di medio capitalizzazione è negativo, 0,19%, e il coefficiente di rivalutazione per cui bisogna moltiplicare i contributi è sotto l'unità. Quindi aritmeticamente 0,99. Quindi se ho 10.000 euro di contributi, devo moltiplicarli per 0,99, risultato 9.980 euro, certo, e non più 10.000. Allora, se è rivalutazione non può essere svalutazione, quindi se è rivalutazione al limite non scende sotto lo zero. Il principio è quello della rivalutazione. Se no è un'aberrazione matematica. E infatti, senti, come è venuta fuori questa questione? È l'INPS che praticamente ha comunicato al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia, che aveva scoperto questa situazione? No, non l'ha scoperta l'INPS, gli è stata comunicata all'INPS il tasso, e a questo punto l'INPS dice, ma se io devo rivalutare, quindi che cosa a questo punto, come devo interpretare questa norma e questo dato? Sappiamo, l'abbiamo scritto e ci è stato confermato dai vertici dell'INPS, che a breve, ad horas, possiamo dire, arriverà una richiesta di pareri da parte dell'INPS al Ministero del Lavoro e dell'Economia, in cui appunto si dirà, signori, cosa dobbiamo fare? In quel momento scatterà una sorta di stand-by, cioè effetto congelamento su questo provvedimento, però a quel punto i ministeri dovranno dire cosa fare, sterilizziamo, cioè congeliamo tutto, allunghiamo questo periodo, questa serie storica invece da 5 a 10 anni, come proponeva l'esperto anche del Sole Gronchi. Che cosa dobbiamo fare? Anche perché dalla Ragioneria di Stato, fonti interne dicono che c'è bisogno di una copertura finanziaria, esatto, su questa cosa. Quindi è una serie di problemi ed è una scelta politica da prendere. Esattamente. Da fare. So che però qualcuno ha già pensato di inserire qualche emendamento in legge di stabilità. Sì, c'è il presidente della commissione di vigilanza degli enti gestori, Lello Di Gioia, che ha presentato un emendamento, ma oggi c'è appunto il test di ammissibilità dei 4.000, credo, emendamenti alla legge di stabilità. Bisogna vedere se passerà o non passerà questo test. Esatto, e se quanta necessaria copertura finanziaria appunto dovrà essere individuata. Fabio Venanzi, ritorno da lei per capire e per spiegare anche ai nostri ascoltatori se tutti i lavoratori in prospettiva sono interessati appunto da una ricaduta di questa media negativa appunto del PIL sul proprio assegno. Se qualcuno va in pensione per esempio il prossimo mese, ne dovrà tenere in considerazione? Allora, Deborah, non riguardano le persone che riusciranno ad accedere alla pensione al massimo entro il primo di gennaio del prossimo anno, 2015, in quanto l'anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione, quindi la cessazione, in questo caso il 2014, l'indice sarà pari a 1 e quindi non ci sarà una svalutazione del montante accumulato al 31 dicembre 2013, cosa che invece accadrà nei confronti di tutti quei lavoratori che decideranno di uscire a decorrere dal 2 gennaio 2015. In quel caso, siccome sono in servizio il primo di gennaio, di fatto l'anno di cessazione non sarà più il 2014, bensì, anche se solo per un giorno, sarà il 2015, e quindi quanto accumulato al 31 dicembre 2013 verrà svalutato in base a quell'indice che l'Istat ha comunicato qualche giorno fa. Certo, che è complicatissimo. Sì. No, nel senso, ho capito, ma mi sembra una cosa molto complicata. Esatto. Allora, siccome noi siamo qui proprio per cercare di rendere cristalline e trasparenti le situazioni complicate, direi che ci prendiamo 10 minuti di pausa per sentire il giornale radio. Poi voi chiamate tutti i dubbi 800 24 00 24, ne siamo qua con i nostri esperti. Esatto, con Vitaliano D'Angerio e Fabio Venanzi torniamo fra pochissimo. e denari. La ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni. Quante preoccupazioni che ci dà questo PIL, l'economia italiana non cresce, lo sappiamo, e per la prima volta la variazione media degli ultimi 5 anni del PIL è negativa. Cosa vuol dire questo? Che è negativa anche la variazione del montante contributivo, che detto in parole semplici è il numeretto che influisce sul calcolo della nostra pensione. È il rischio dunque che il nostro assegno, che al momento è virtuale, diminuisca. Noi ne stiamo parlando oggi a Cuore Denari, la notizia è stata diffusa in questi giorni, il governo si è probabilmente già messo al lavoro per capire come arginare questa situazione, che noi oggi intanto commentiamo con Vitaliano D'Angerio del Sole 24 Ore, il nostro esperto in materia previdenziale, Fabio Venanzi. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Ricominciamo a sentire subito, sì, gli ascoltatori. Sì, assolutamente. Nicoletta. Mimma ci chiama da Bergamo e Fernando dalla provincia di Cremona. Sì, buongiorno. Oggi abbiamo le papere. Non lo so, io dico, la chiamo la patata in bocca, che capita spesso e volentieri. Mimma. Buongiorno. Buongiorno. Si impaperi un po' anche lei. Ecco, la prego, per solidarietà. Volevo solo comunicare che, andando sul sito dell'INPS e avendo creato il PIN, ho potuto vedere l'estratto conto contributivo con la simulazione del calcolo della pensione. Io sono ferma da parecchi anni, non ho più lavorato, però ho potuto vedere cosa percepirò quando avrò 67 anni. Non è svenuta, perché ci sta chiamando. No, quindi è una presa di coscienza molto realistica, che è corretto che tutti i lavoratori facciano. Mimma, grazie per il suo intervento. Mimma si è fatta il PIN dispositivo e è andata a vedere il suo estratto conto contributivo. Come dire, cose che, Fabio Venanzi, dovremmo fare tutti quanti, anche per verificare se le aziende per le quali abbiamo lavorato hanno versato tutti i contributi, no? Quindi è anche una bella sorpresa vedere un po' questo montante lì concreto sul sito dell'INPS. Lei che ne dice? Esatto, sì, infatti è uno strumento molto utile per i lavoratori, affinché riescano a tenere sotto controllo la propria posizione previdenziale, riescano a capire come annualmente la futura pensione cresce. Ecco, esatto. Però a prescindere dal fatto che cresce, che cresca e che si rivaluti secondo i criteri anche stabiliti dalla legge Dini, come scriveva in questi giorni insieme a Vitaliano D'Angerio anche Matteo Prioschi, sembra che sul tema pensioni, insomma, si sia scatenata questa tempesta perfetta. A parte questa svalutazione dei contributi decretata appunto dal PIL che non cresce, abbiamo avuto anche in questi anni, lei lo ricorda stamattina sul Sole Venanzi, il blocco della rivalutazione appunto dell'indicizzazione, no? All'inflazione. Abbiamo adesso questo aumento della tassazione sui fondi pensione, la questione del TFR in busta paga, ai pensionati non ne sono stati dati gli 80 euro, qua adesso sembra quasi un accanimento. Ecco, esatto, non definiamolo così, perché noi insomma siamo amici del ministro Poletti, noi confidiamo nella sua azione, però certo che un po' di frustrazione c'è. Venanzi. Sì, infatti, inoltre appunto non hanno avuto neanche il bonus Renzi, possiamo dire che l'unica fortuna, come scriviamo oggi sulle pagine del Sole, è quella che l'indice negativo fortunatamente non incide chi in pensione già c'è, in quanto loro hanno già pagato a loro modo con la mancanza di rivalutazioni nel biennio scorso e con una rivalutazione parziale comunque nel corso del 2014. Ora occorrerà vedere se nella legge di stabilità, una volta approvata dal Parlamento, che cosa accadrà anche ai pensionati, se le rivalutazioni verranno confermate come sono al momento previsto. Secondo lei un intervento ragionevole che il governo potrebbe fare qual è? Su quest'ultima questione, blocco della rivalutazione legata al PIL. Allora, avevamo già suggerito alcune soluzioni sulle pagine del Sole nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, perché è una questione nota già da qualche mese, ora abbiamo avuto solo l'ufficialità della notizia. Gli strumenti sarebbero diversi, la prima potrebbe essere quella di neutralizzare appunto l'effetto negativo dell'indice PIL, ricorrendo magari a una rivisitazione di quella che è stata la riforma Monti-Fornero, con l'introduzione del sistema contributivo, quindi della quota contributiva in favore di quei lavoratori che già godevano o comunque andranno a godere di una pensione calcolata con le regole del sistema retributivo. Esatto, dove in taluni casi, soprattutto con retribuzioni particolarmente elevate, 60-70 mila euro all'anno in su, riescono ad avere anche una pensione più alta rispetto a quella calcolata, che se la riforma insomma una sorta di altro contributo di solidarietà camuffato un po' come lei suggerisce. Possiamo dire così? Altro, il problema è che con la riforma Montifornero, tanto equa e tanto solidale che è stata spacciata, in realtà i lavoratori che rientravano in un sistema retributivo puro hanno guadagnato dalla riforma. Quindi non ci sono solo soggetti che si sono visti allungare l'uscita dal mondo del lavoro, ma nei confronti di quelle persone che potevano già uscire ma che non sono volute uscire, loro stanno traendo comunque benefici economici. Forse lo scrive anche Stella stamattina sul Corriere della Sera. Infatti. Quindi in sostanza diciamo così che per colmare questo vuoto che si verrebbe a creare con lo stop alla rivalutazione secondo i criteri del PIL, dovrebbero essere chiamati a contribuire quei pensionati e pensionandi che hanno ancora il retributivo puro, perché qualcuno ce n'è ancora, anche se siamo molto distanti, lontani dal 95, vitaliano. Sì, più sì, che altro è questo, no? Proprio così, è proprio così. Dovranno mettere mano a questa situazione, tanto più secondo me su quello che è la parte fiscale dei fondi pensioni, perché non è possibile, ci hanno raccontato dal 95 ad oggi, dal 2005 a oggi, anno della riforma Maroni sui fondi pensioni, che è necessario risparmiare per le future pensioni. Ma se tu, unica in Europa insieme a Svezia e Danimarca, mi tassi non solo la performance alla fine, ma mi tassi anche nel durante... io non sono incentivato a risparmiare per il mio futuro, no? Perché tu mi tassi ora e alla fine. Soprattutto se mi cambi le carte. E mi cambi le carte in tavola, mi porti al 20% la tassazione. Tu invece mi devi incentivare questo risparmio, perché soprattutto, infatti diceva bene Venanzi, non per quelli che vanno oggi in pensione, ma chi è che sarà penalizzato? I giovani. Certo. Ti devo dire che quando abbiamo trattato l'argomento della nuova idea appunto di tassare i fondi pensione, anzi la nuova idea, la nuova tassazione sui fondi pensione, un ascoltatore diceva proprio: io a questo punto ritengo che venga ad essere violato un contratto che io ho anche sottoscritto con una società di gestione del risparmio con la quale ho sottoscritto appunto un fondo pensione, per cui mi ritengo anche autorizzato a sciogliere questo contratto, per cui a non alimentare più un prodotto di previdenza complementare. Ognuno fa le sue valutazioni, di certo non vengo incentivato a mettere da parte dei soldi se il fisco mi chiede invece dell'11% il 20% sulle performance. Poi sì, no, volevo solo anticipare che magari con Vitaliano facciamo anche il punto sulle casse di previdenza, sì, perché lì c'è un'alta bella pletora di lavoratori che naturalmente sono un po' appesi a queste decisioni eventuali del governo. Chi sentiamo? Vorrei sentire Fernando, che ci chiama dalla provincia di Cremona, che è in attesa. Buongiorno Fernando. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Benvenuto. Senta, io, grazie, come dicevo poc'anzi alla nostra Rosa Barriera Rosa. Esatto. Io volevo fare questa domanda, già che ho contratto un accordo con Poste Italiane che al 31/12/2014 divento un esodato, e avendo compiuto 40 anni di contributi, la Posta ha detto: guarda, te ne diamo 2 anni e 10 mesi, 3, per arrivare a 42 anni e 10 mesi e te ne vai in pensione. Io ho accettato. Mi pagano i contributi per i prossimi 3 anni, 15, 16 e 17, e il 1 gennaio 2018 dovrei percepire l'assegno mensile pensionistico. Volevo sapere a che cosa vado incontro riguardo a tutto quello che voi state questa penalizzazione virtuale sostanzialmente appunto inciderà anche sull'assegno del nostro ascoltatore Fabio Venanzi. Adesso mi rendo sempre conto che dare una risposta istantanea alle richieste individuali degli ascoltatori è complicato, però mi sembra un caso abbastanza chiaro. Sì, il lavoratore l'unica cosa a cui va incontro è se ci dovesse essere un'ulteriore modifica, o soprattutto se la speranza di vita, che dovesse essere pubblicata entro la fine del mese prossimo, dovesse essere superiore rispetto a quella stimata. Noi giustamente il lavoratore parlava di 2 anni e 10 mesi, perché si stima che dal 1 gennaio 2016 il requisito di accesso alla pensione venga incrementato di ulteriori 4 mesi. Se però questo aumento dovesse essere superiore ai 4 mesi, lui rischia che le Poste non gli hanno di fatto erogato un numero di contributi o comunque non gli abbiano pagato una somma sufficiente poi a garantirsi una continuità tra l'ammortizzatore che gli hanno offerto e la decorrenza del trattamento. Però siamo sempre nell'ordine delle ipotesi di cose che possono accadere, ecco. Esatto. Allo stato dell'arte in ogni caso la questione del PIL negativo sulla rivalutazione del suo assegno incide comunque, perché lui è un lavoratore che avendo 40 anni di contributi comunque ha una quota contributiva, perché non ci dobbiamo dimenticare che dal 2012 per effetto della riforma Montifornero tutti i lavoratori tutto hanno è contributivo. Una quota contributiva, nel suo caso decorre solo dal 2012 e quindi possiamo dire che la parte che verrà svalutata è molto limitata perché riguarda un orizzonte temporale solo di 2 anni, a differenza invece di chi ha un sistema misto, una quota contributiva che decorre dal 96, che di fatto possiamo dire oramai è arrivata a quasi 20 anni di contribuzione. Allora, Vitaliano d'Algerio, stamattina ho messo la L anche nel cognome, alcune casse di previdenza proprio in virtù della loro autonomia hanno chiesto di utilizzare un altro tasso di rivalutazione, insomma hanno intanto il diritto di potersi alzare e contestare eventualmente questa situazione, e quindi anche qua un'altra situazione di non uguaglianza con gli altri lavoratori, sono molto meno però. 2 milioni di professionisti per 20 casse. Il fatto è questo, cioè loro nella loro autonomia possono chiedere, caro Ministro del Lavoro, caro Ministro dell'Economia, voglio cambiare questo tasso di riferimento. È stata sempre negata questa cosa però. Chi si è ribellato è stata la piccola categoria degli agrotecnici, della cassa degli agrotecnici. Hanno fatto ricorso al TAR, ricorso al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato il 18 luglio scorso gli ha dato ragione. Ha detto che voi avete conti in ordine, sostenibilità 50 anni, potete decidere di cambiare. Loro che hanno fatto? Non solo hanno cambiato indice, ma soprattutto hanno garantito un rendimento minimo dell'1,5% agli iscritti a questa cassa. Quindi se, come nel caso appunto del PIL che va a zero, che a questo punto per loro garantiscono 1,5 di rendimento minimo, dato anche dal fatto degli investimenti e quindi della ricaduta finanziaria dei loro investimenti sulle pensioni appunto degli iscritti. Chi è in attesa di una parere del Ministero sono la Cassa degli Ingegneri e Architetti, Narcassa, la Cassa dei Consulenti del Lavoro, EMPACL. Hanno già fatto domanda e stanno aspettando a questo punto la risposta dei ministeri. Ci stanno pensando anche gli psicologi, l'EMPAP e i periti industriali EPPI, che stanno pensando anche loro di cambiare questo tasso. I giornalisti non fanno niente? I giornalisti allora mandano avanti gli altri, guardiamo cosa succede e vedremo, poi vedremo. Sono varie casse a questo punto che interessate. Se i ministri diranno di no, c'è un precedente del Consiglio di Stato, non vale per tutti ma vale per quella cassa, però a quel punto con questo precedente potrebbero andare si può istruire insomma un ricorso abbastanza a questo punto nutrito in termini di partecipazione. Peraltro le casse sono anche loro arrabbiate per la questione dell'inasprimento appunto della tassazione sulla previdenza complementare. Ma su questo credo che ci saranno, che sono delle trattative in corso per evitare questo aumento al 26% se non erro della tassazione. Sì, anche sul TFR ho letto oggi, anche noi ne diamo conto sul Sole 24 Ore, che ci sono delle trattative in corso appunto per ridurre questa tassazione. La tassazione eventualmente per il TFR di chi decide di prenderselo in busta paga invece che versarlo. Insomma un cantiere aperto direi, ma insomma la legge di stabilità ormai è questione di pochissime settimane e il governo dovrà mettere in chiaro tutte le iniziative che intende prendere e inserire in questo super pacchetto. Andiamo a Trento, anzi, dove sono molto longevi peraltro, abbiamo scoperto stamattina. Nella provincia di Trento, esattamente dove, Michele, buongiorno. Zona Garda, dove sono tutti i centenari. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno da Caldonazzo. Caldonazzo, centenari allora, lì questo. A Caldonazzo ce ne sono? Prego? Centenari a Caldonazzo ce ne sono? Ne conosce? Sì. Ecco, vedi, mettiamo. Okay. Allora. Insomma, quindi là è importante che le pensioni siano a posto, che vengano versate naturalmente e soprattutto che si maturino tutti i requisiti per ottenerle. Michele, ci dica. Allora, si tratta di questo, sono un pensionato ex INPDAP, sono andato in pensione dal 1 settembre del 2011, in servizio già dal 1971. Ecco, volevo capire se questo problema del PIL negativo agisca anche sulla mia pensione. No, Michele, stia tranquillo, che la sua non gliela tocca nessuno. Venanzi, siamo assolutamente certi. Dipende poi dall'importo che percepisce, Michele, perché al limite gli è stata bloccata l'indicizzazione all'INPS, all'inflazione. Esattamente, però l'indice PIL negativo, come correttamente ha colto Nicoletta, non riguarda i soggetti che sono già pensionati. Sì, allora, quindi Michele può stare assolutamente certo. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, se volete continuare ancora a appunto esprimere il vostro parere su questo argomento. E anche sapere magari se consapevoli del fatto che l'assegno che percepirete sarà magari un po' magrolino, magari si sono attrezzati con chissà un fondo pensione. Raccontatecelo anche al 349 238 6666. Insomma, come vi state organizzando, come tenete botta soprattutto, perché noi nella prima parte della trasmissione abbiamo detto ecco questa è la ricetta per vivere a lungo, sani e poi, felice, la poi pensione pam, nella seconda arriva. Parte. Senti, leviamoci anche quel dentino che dovevamo toglierci prima, perché è arrivato un ascoltatore stamattina che ha detto dovete leggervi questo libro, è rivoluzionario, vi suggerisco di farlo, ma insomma lui si è messo all'ascolto di Radio di Cuore Denari ieri. Sì, perché Daniele di Reggio Emilia suggeriva la lettura di Super Salute, un libro che Massimo Gualerzi, che è tra l'altro uno degli ospiti fissi a Cuore Denari, ha scritto già lo scorso anno e che abbiamo presentato tante volte. Quindi questo vuol dire che è una new entry. Vedi? E noi gli diamo il benvenuto. Benvenuto a Cuore Denari, a Daniele di Reggio Emilia. L'ultima considerazione con Vitaliano D'Angerio e Fabio Venanzi. Allora, alla luce di tutti i temi aperti sulla questione pensioni, è assolutamente più che mai importante che l'INPS invia più presto questa benedetta busta arancione, Vitaliano. Insomma, sì, abbiamo lanciato questo messaggio tante volte, mi rendo conto, ci rendiamo conto che è politicamente non tanto corretto in questo periodo, perché verrà comunicato a tutti i lavoratori una situazione un po' di prospettiva difficoltà del proprio assegno di assegno magro e piccolino. Già sul tutti ho qualche dubbio, perché almeno leggendo le dichiarazioni dello stesso Treu nei giorni scorsi, lui parlava di un invio graduale e alle persone che erano più vicine all'età pensionabile. Una sperimentazione, intanto per vedere la reazione, serve a poco perché io penso che soprattutto i giovani hanno bisogno di sapere, anche per una presa di coscienza, come dicevi giusto tu, e anche di responsabilità, no? Sui propri contributi, su quello che sarà la propria vita tra 30 anni, e quindi questa consapevolezza ti porta a sottoscrivere un fondo pensione, a farti un PIP, a decidere a risparmiare comunque alternativamente, a trovare delle alternative e quindi è necessaria la busta arancione anche alla luce appunto del PIL, no? Perché così sappiamo tutte le variabili che incideranno sul nostro assegno previdenziale. Se tu però non me lo dici, come avviene in tutti i paesi del mondo, come faccio io a valutare? Venanzi, 5 secondi anche a lei su questo tema, se ritiene. Non posso che condividere quello che ha detto Vitaliano D'Angerio, occorrerebbe meno schizofrenia normativa su un argomento caro e sensibile a tutti. Ecco, sempre per utilizzare dei concetti che mettono insieme il cuore e i denari, no Nicoletta? Assolutamente. La schizofrenia normativa, grazie a Vitaliano D'Angerio, a Fabio Venanzi. Nicoletta, allora io mi riprendo altri due giorni di pausa, ti lascio sola, prenditi cura di Cuore e Denari come solo tu sai fare. Va bene, noi intanto ti aspettiamo, cercheremo di essere all'altezza della situazione. All'altezza del mio 1,80 m, ottimo. Grazie. A domani allora. Buona giornata a tutti. Cuore e Denari.